26° canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, 26° canto. Godi, Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per lo inferno tuo nome si spande. Tra li ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai, di qua da picciol tempo, di quel che prato non ch'altri t'agogna. E se già fosse, non saria per tempo. Così foss'ei, da che pur esser dee, che più mi graverà con più m'attempo. Noi ci partimmo, e su per le scalee che m'avea fatto i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me, e proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo pie senza la man non si spedia. Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, e più lo ingegno affreno chi non soglio, perché non corra che virtù non il guidi. Sì che se stella bona o miglior cosa m'ha dato il ben, ch'io stessi nol m'invidi. Quante il villan ch'al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia e ara. Di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi, tosto che fui là ve il fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi vide il carro d'Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che nol potea sì con gli occhi seguire, ch'el vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta in su salire, tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto e ogni fiamma un peccatore invola. Io stava sovra il ponte a veder surto, sì che s'io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senz'esser urto. E il duca, che mi vide tanto atteso, disse: dentro dai fuochi son gli spirti, catun si fascia di quel ch'egli è inceso. Maestro mio, risposio, per udirti son io più certo, ma già m'era avviso che così fosse, e già voleva dirti: chi è in quel fuoco che vien sì diviso di sopra, che par surger de la pira, dove Teocle col fratel fu miso? Rispuose a me: là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come a l'ira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dei romani il gentil seme. Piangevisi entro l'arte perché morta Deida mia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Sei posson dentro da quelle faville parlar, diss'io, maestro, assai ten priego e ripriego, che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna. Vedi che del disio ver lei mi piego. Ed elli a me: la tua preghiera è degna di molta loda, e io però l'accetto. Ma fa che la tua lingua si sostegna, lascia parlare a me, ch'io ho concetto ciò che tu vuoi. Ch'ei sarebbero schivi, perché fuor greci, forse del tuo detto. Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi: